4. Sai, sto ricominciando a credere nei miracoli. Non ridere, ma con l'andare del tempo è possibile recuperare alcune antiche credenze. Io, ad esempio, quella di una seconda vita nella quale avremo del denaro, oppure il denaro non servirà più a niente. Pensa che potrei addirittura riconciliarmi con la morte, che in passato mi era tanto antipatica, poiché anche in mancanza di altri vantaggi è sicuro che là almeno non ci saranno più né creditori né conti da pagare. E meno male che non sono religiosa, perché altrimenti penserei che l'eterna dannazione consista nel fatto che i creditori e i conti da pagare ci perseguitino anche nel regno dei morti. Dunque, mi sembra chiaro che le vostre preghiere sono state esaudite. Lascia che ti racconti. L'altro ieri sono di nuovo andata giù in paese con l'ateo e la vedova del costruttore, che ogni tanto chiede di venire con noi. Nel pomeriggio, non sapendo più che cosa fare, ci siamo messi a giocare a birilli. Ci sentivamo tutti e tre piuttosto infelici e ci siamo diffusamente lamentati della nostra pietosa esistenza e dello stato dei nostri nervi. Quando poi abbiamo smesso per un po' il gioco dei birilli, io ho visto nel giardino della locanda un signore seduto il cui aspetto mi è parso stranamente familiare. E in effetti lo conoscevo, si trattava di Harry. Sai, non ci vedevamo da anni e anni e io mi sono molto stupita di non trovarlo cambiato. Quando a suo tempo Harry se ne andò lontano, tutti pensarono che avrebbe fatto carriera e che al suo ritorno, davvero milionario, con la pancia tintinnante di ciondoli, ci avrebbe finanziati tutti. Ma lui a un certo punto smise di scrivere e allora con grande rammarico credemmo di averlo perduto. Invece è ritornato ed è sempre il solito Harry. Continua come allora a fondare società che immancabilmente falliscono e subito dopo dichiara che sta trattando un nuovo affare veramente favoloso. Harry si è stupito non meno di me nel vedermi lì che giocavo ai birilli con quei due e il suo stupore è aumentato quando gli ho detto che stavamo nella casa di cura su in cima. Volente o nolente, ho dovuto poi chiamare al tavolo anche gli altri. La cosa è andata liscia. La vedova lo ha subito preso in simpatia e gli ha raccontato la storia del suo feroce speculatore. Harry ha immediatamente cominciato a riflettere alle varie possibilità di raggirare i suoi creditori e di salvare il patrimonio dal fallimento. Gli altri più tardi mi hanno preceduta sulla via del ritorno perché non volevano perdere il trattamento serale, mentre io sono rimasta ancora un po' e l'ho lasciato raccontare. Harry è venuto da queste parti per comprare delle aree fabbricabili per un'industria e intende trattenersi ancora un po', sia perché il posto gli piace, sia perché ha urgente bisogno di un periodo di riposo. Mentre stavamo conversando, ho notato ad un tratto che in realtà è cambiato. È diventato più taciturno e ogni tanto ha uno strano modo di fissare nel vuoto davanti a sé, con uno sguardo trasognato. A cosa pensi, Harry? Sto facendo dei conti. Sempre? Sempre. Vuol dire che anche tu hai un complesso del denaro. Che cos'ho? Fece lui, già che conosceva soltanto i complessi di case, di fabbricati e di terreni. Gli ho spiegato come meglio ho potuto e quasi temendo che potesse offendersi che cos'è il complesso del denaro e lui invece ci si è gettato a capofitto come se si trattasse di una nuova speculazione. È possibile che sia rimasto colpito dal suono familiare della parola, appunto perché si occupa incessantemente di complessi edilizi, di complessi di fabbricati e così via dicendo. Comunque, avendo quest'uomo una capacità di illudersi molto superiore alla mia, la possibilità di una guarigione mediante trattamento psicoanalitico gli è sembrata assai illuminante, sicché quando arriva il mio freudiano vuole assolutamente conoscerlo. Per me va benissimo, chissà che così io non riesca a schivare quel trattamento al quale già da tempo non ho più voglia di sottopormi. La sera sono arrivata in clinica con grave ritardo e il professore mi ha fatto una vera scenata, poiché gli è giunta voce delle nostre escursioni, ha accusato me di aver traviato il giovane ateo, inducendolo a bere, e poi ha detto: "La vedova stasera è completamente sfasata e io stessa trascuro del tutto la mia terapia." Sapessi, stavo quasi per perdere la pazienza ed ero proprio sul punto di esplodere e ribellarmi apertamente dicendogli che sto benissimo così e che per l'amor del cielo deve lasciarmi in pace. Ah, per una come me che dorme come un angelo è già abbastanza dura farsi curare per l'insonnia e altri simili disturbi, figurarsi poi. Ma in seguito all'ultima crisi finanziaria sono diventata una donna senza carattere. Non ho più il coraggio di darmi la zappa sui piedi. So troppo bene quel che si prova a star sotto quando la zappa ci arriva addosso con uno schianto. Ah, è una cosa che non riesco più a fare. Ogni volta che mi viene voglia di ribellarmi, il professore, come in una visione, mi ricompare davanti nei panni del creditore e allora divento mite come un agnello. Abbiamo dunque dovuto rinunciare alle nostre passeggiate in paese per giocare ai birilli, ma in compenso ho persuaso Harry a trasferirsi con noi nella casa di cura, facendosi passare per nevrastenico. Lui si trova bene e insieme ci sforziamo di renderci la vita più gradevole possibile. Adesso che è estate, comunque tutto è più sopportabile. Abbiamo lasciato la grande sala da pranzo con quella lunga deprimente tavolata e i pasti vengono serviti in terrazza su singoli tavolini per poche persone. Harry, il dottor Lucas, il giovane Gottfried e io abbiamo un tavolo nel punto più alto della terrazza, da dove riusciamo a vedere bene gli altri, ma anche a stare un poco appartati. La vedova voleva unirsi a noi, ma per fortuna non c'era più posto. Così si accontenta di farci visita ogni tanto e per evitare che ci disturbi troppo, stiamo educandola al nostro modo di vedere la vita. Insomma, nel bel mezzo di questo mondo estraneo ci siamo creati una specie di ambiente a parte. Come puoi immaginare, Harry ed io abbiamo molte cose da raccontarci e non facciamo che parlare dei vecchi tempi. Abbiamo calcolato da quanto tempo ci conosciamo. Sono ormai 8 anni circa. La nostra amicizia ebbe inizio con un viaggio molto bello, lungo e dispendioso, dal quale ritornammo a casa senza il becco di un quattrino. Harry abbandonò poi l'attività scientifica alla quale fino allora si era dedicato per passare agli affari. Vi fu indotto per la prima volta da un ex amico nella cui attività commerciale Harry aveva investito un cospicuo capitale che quello poi non gli volle rimborsare. L'ex amico fu querelato e giunse anche l'ordine di pignorare i suoi beni, ma non servì a nulla. Quel tipo si era infatti premunito, cedendo per tempo a sua zia tutto ciò che possedeva. Ma era anche l'autore di una promettente invenzione, di cui, come ovvio, non gli fu facile cedere il brevetto alla zia, e così Harry riuscì a farlo sequestrare. Fu allora che noi, i suoi più stretti conoscenti, imparammo ad ammirarlo. È vero che già prima egli ci aveva illustrato ogni sorta di progetti, ma noi ne capivamo assai poco e li avevamo considerati qualcosa di irreale. Lo vedo ancora davanti a me, Harry, quando un giorno all'improvviso diede un pugno sul tavolo e disse: "Adesso ce l'ho fatta". Passati 8 giorni, Harry aveva fondato una società a responsabilità limitata basata sull'invenzione dell'ex amico. Disponeva di un elegante ufficio con un'enorme quantità di progetti, piantine, modelli in gesso e stava al telefono dalla mattina alla sera. Se ricordo bene, l'invenzione consisteva in una sala cinematografica a prova d'incendio, nel senso che seppure il fuoco vi fosse un giorno divampato, in mezzo minuto si poteva estinguerlo, evitando quantomeno che tra il pubblico si diffondesse il panico. Come la storia sia finita, non riesco più a rammentarlo. Ma non ha importanza, è stato questo in ogni caso l'esordio della carriera di Harry come fondatore di SRL. Per di più, egli ha sempre avuto, non meno di me, una strana cattiva stella nelle faccende finanziarie. È chiaro, infatti, che anche Harry non è mai riuscito a trovare un giusto rapporto personale con il denaro. E mentre a me il denaro mi ha poi presa sul serio, di lui si è beffato in maniera inqualificabile. Ancora oggi le male lingue sostengono che dalle iniziative di Harry non è mai venuto fuori nulla di concreto, ma questo è risaputo e non bisogna farci caso. A lui non è mai importato niente. È sempre stato imperturbabile e se qualcuno gli chiedeva come vanno le cose in questa o quell'altra faccenda, la sua risposta era: "Male. C'è stato un intralcio proprio nel momento decisivo, ma ora ho per le mani un nuovo affare e il diavolo mi porti se questa volta non va a buon fine". Ogni tanto scompariva. Noi temevamo che fosse fallito e invece era solo andato per un breve periodo in Sud America o da qualche altra parte per dare l'avvio a un certo progetto. Poi ricompariva tra noi e subito allestiva un nuovo ufficio e una targa imponente sulla porta recava il nome di una nuova SRL. Coi suoi modellini, i telefoni sempre occupati e gli azionisti. Come vedi, Maria, anche stavolta è ritornato e ha sistemato nella cittadina qua sotto un ufficio nel quale passa un paio di ore al giorno al telefono con i suoi azionisti. Continuiamo a bearci insieme dei vecchi ricordi, quando avevo del denaro io, quando ne avevi tu, oppure ti ricordi quella volta quando davvero l'acqua mi è arrivata alla gola? C'è sempre stata tra i nostri destini una certa affinità e perciò doveva pur capitare che anche in questa casa di cura noi due ci ritrovassimo coi nostri rispettivi complessi del denaro e non c'è da stupirsi se aspettiamo entrambi, come ai vecchi tempi, una soluzione vantaggiosa, io la mia eredità. Harry è un affare colossale che questa volta, a suo avviso, non può non andare in porto. Sei pregata di non ricominciare a lamentarti delle mie lettere. Comunque, in questo momento ho un interesse talmente sconfinato per la mia personale sopravvivenza che non riesco a pensare a nient'altro. L'eterno problema del denaro può stregare fino a questo punto, solo che nessuno vorrebbe mai sperimentarlo di persona. Sai, ce ne si infischia altamente di tutto, di ogni bella qualità dell'animo e di entrare nel vivo di qualsiasi altra questione. 5. Abbiamo contagiato, temo, il povero libero docente. All'inizio si limitava a conversare pacificamente di questioni economiche. Adesso invece dimostra un interesse vivacissimo per le iniziative e le speculazioni finanziarie e, insomma, per tutti i problemi che hanno a che fare direttamente o indirettamente con il denaro. Ormai al nostro tavolo non si parla d'altro, le nevrosi e le psicosi hanno perso qualsiasi attrattiva. Perfino Gottfried ha smesso di rimuginare sulla sua concezione del mondo e ci ascolta assorto. Sono convinta che a forza di frequentarci riuscirà a guarire del tutto. Oggi sono stata seduta per parecchio tempo da sola con il dottor Lucas. Abbiamo provato in tutti i modi per cambiare, ad affrontare argomenti diversi, il caldo, la personalità del professore, come sarebbe bello ora andarsene al mare del Nord per un paio di settimane, ma più passava il tempo, più diventavamo laconici e noiosi. Poi per un momento è venuta da noi la vedova, che ha subito intonato la sua solita lamentosa tiritera. Giorno e notte aveva lavorato il suo defunto marito, fino a quando era riuscito a depositare in banca un piccolo patrimonio, e ora, Dio mio, quel denaro tanto sudato era tutto finito nella massa fallimentare. La buona donna è davvero estenuante, ma proprio in questo consiste la sua nevrosi, nel fatto che continua a ripetere senza posa la storia delle sue disgrazie e gli altri malati devono avere pazienza. Beh, bisogna ammettere che ha ragione, ha detto il dottor Lucas dopo che la vedova se n'era andata. No, secondo me si sbaglia di grosso, ho replicato io, proprio perché apprezza così tanto e mette in rilievo che quel denaro è stato sudato. L'espressione è contraddittoria, il concetto altrettanto. Il denaro sudato non ha pace né gioia, e per forza deve odiarci. Lo abbiamo trascinato per i capelli dove forse non aveva affatto intenzione di andare. E anche noi dobbiamo odiarlo, poiché per ottenerlo ci siamo tormentati e l'idea di quel tormento ci riempie ancora di rancore. E sempre il denaro trova il modo di vendicarsi, vuoi perché altra gente lo aspetta al varco, vuoi perché come prima reazione noi lo spendiamo in cose senza senso. Ma il feroce speculatore, a quel che sembra, aveva depositato quel denaro in banca in modo da garantirsi per il futuro un po' di prosperità. Peggio ancora! Ciò significa che si è poi trasformato in sudati risparmi. E si sa come finiscono i risparmi. La gente li perde sempre in maniera tragica. Io lo capisco benissimo che il denaro non tolleri simili definizioni. Sudati risparmi. Provi un po' a dirlo un paio di volte, possibilmente con voce stridula. Lucas lo fece e fu costretto a darmi ragione. Sembra il verso autunnale delle cornacchie, disse. Nel frattempo, senza farsene accorgere, Harry era entrato dal cancello del giardino e dopo qualche istante sentimmo che era dietro di noi. «Ma che cosa state facendo?» disse con aria sinceramente spaventata. «Mio Dio, dottore, e ormai anche lei... Ah, venga piuttosto giù nel mio ufficio, volle mostrarle qualcosa». Nell'ufficio c'era un operaio impegnato ad aprire una grande cassa di legno e noi eravamo curiosissimi di conoscerne il contenuto. Harry intanto si mise a raccontarci con ricchezza di particolari la storia delle miniere d'oro in Sudafrica, quelle che a suo tempo lo avevano indotto a lasciare il paese. Gli era stata affidata la direzione generale dell'impresa, se non che, come al solito, proprio quando tutto sembrava avviato per il verso giusto, il denaro aveva ordito una vera e propria congiura contro di lui. di denaro semplicemente non ne aveva affatto, ma quella non era certo una cosa che poteva spiattellare agli azionisti. E così continuava a procrastinare la partenza, rinviandola alle calende greche. Le male lingue ricominciarono a sparlare di lui e qualcuno disse che per mesi era andato in giro con una barba finta in modo che nessuno si accorgesse che si trovava ancora lì. Passati 6 mesi, o forse un anno, non ricordo più, finalmente raggiunse la città in cui aveva sede l'impresa in questione. Ma da lì, nel frattempo, un certo signor Al-Ramseder di Norimberga, che possedeva una partecipazione in quell'affare, aveva tramato contro di lui e così Henry apprese già all'arrivo che la società lo aveva da tempo sollevato dall'incarico, nominando al suo posto il suddetto signor Al-Ramseder. Quell'uomo tanto amabile, con un nome così familiare, era affetto da una grave forma di rabbia tropicale e come se niente fosse gli aveva mandato incontro una squadra di 16 cafri che avrebbero dovuto mandarlo in prigione. La vedova, che lo ascoltava con grandissima emozione, domandò con il cuore in gola: «Dica, e lei che cosa ha fatto?» «Beh, prima di tutto ho fotografato i cafri», disse Henry veloce senza darsi arie. «Ha fotografato i cafri?» «Sì, per avere in mano una prova concreta contro quella al Ramseder», rispose Harry. Seguì una pausa. In effetti, alla fine gli era riuscito, ma non so se la fotografia dei cafri ebbe in ciò una parte decisiva, di riassumere e conservare la direzione dell'impresa. La vedova, entusiasta di questo racconto, è ormai convinta che Harry riuscirà a liquidare i suoi creditori e a lavare da ogni onta la memoria del marito, il feroce e incorreggibile speculatore. Nel frattempo la cassa era stata finalmente aperta e Harry ne estrasse uno strano e informe modello di gesso che raffigurava il giacimento minerario attraversato da un fiume blu. Dopo averci dato qualche spiegazione sulla geografia della zona, disse che lo strato aurifero si trovava sotto il letto del fiume. «E l'oro come si fa a estrarlo?» domandammo noi. «Vabbè, è una cosa semplicissima, semplicissima», rispose Harry e subito tirò fuori il fiume colorato di blu con un gesto talmente convincente che per un attimo la nostra sensazione fu che anche nella realtà si trattasse soltanto di fare così. Ebbene, Harry ci ha poi spiegato con precisione come si estrae l'oro. Ma prima di tutto non sono stata attenta. E poi, beh, non credo che la cosa ti interessi più che tanto. In fin dei conti, ci possiamo vivamente interessare all'oro soltanto sotto forma di un pezzo da 20 marchi che ormai ci appartiene. 6. Dunque, ho finalmente da annunciare un fatto sensazionale: il fatto che il vecchio signore è spirato dolcemente, come è scritto nel telegramma inviatomi ieri dal mio coerede. L'ho ringraziato in cuor mio di aver usato un'espressione così discreta e mi sto sforzando di provare verso il defunto sentimenti non meno riguardosi. In realtà è una cosa che quando uno è morto riesce sempre piuttosto facile. Vi prego dunque di non aspettarvi volgari grida di giubilo da parte mia, giacché per ora mi sento quasi in dovere di assumere anzi un atteggiamento di estremo decoro. In primo luogo, sia sul testamento sia soprattutto sullo stato delle proprietà del defunto ancora non sappiamo nulla di preciso. E trattandosi del patrimonio di uno straniero, non è escluso che la cosa si trascini per un bel po'. Inoltre, io ho perso fiducia nel denaro in quanto tale, e certo non posso riacquistarla da un giorno all'altro. Fino a quando non lo vedo sul tavolo di fronte a me, e sai, non è detto che il denaro mi ritenga pura abbastanza da lasciarsi in effetti posare sul mio tavolo. Moltissime volte, quando ormai era sulla strada per venire da me, tutt'a un tratto mi ha voltato le spalle con un misero pretesto. Sapere che del denaro ci appartiene non basta di per sé. Ritengo quindi doveroso, almeno per il momento, ignorarlo quanto più è possibile ed evitare a tutti i costi di farlo imbizzarrire. Fatemi un piacere, assumete anche voi il mio stesso atteggiamento e quindi evitate di parlare della cosa, non gioite, non fate chiasso e non mandatemi i vostri rallegramenti. No. Questa notizia di per sé non può ancora liberarmi dal mio complesso, però ricomincio a poco che la mia vita ha una sua ragione d'essere, sensazione che nel frattempo avevo completamente perduta. Lascia che te lo dica, cara Maria, due cose soltanto possono dare questa sensazione: il denaro e l'amore. Se tutto va per il verso giusto, amore e denaro arrivano insieme, ma quando mai capita nella vita che tutto vada per il verso giusto? E se manca uno di questi due, ci si può ancora consolare con l'altro, ma se mancano entrambi, come ora, come in questo posto, allora tutto sommato il soggiorno diventa piuttosto tetro. Col denaro potrei andarmene, ma non ne ho. Con l'amore potrei restare, ma manca un oggetto adeguato. L'ateo è troppo giovane, Lucas troppo serio, e di Harry ormai sono diventata troppo amica. Del medico ci si innamora soltanto se si è isteriche davvero, e il nostro degnissimo professore non è la persona giusta. Continuo soltanto oggi. È stato qui il mio coerede. Ci siamo stretti la mano con serietà e correttezza, ma anche un po' come due superstiti di un naufragio che adesso cominciano a conoscersi meglio. Abbiamo avuto per il defunto qualche parola gentile e in questo ci siamo comportati da persone per bene, dato che lui invece in tutta la sua vita ha sempre dimostrato scarsissima simpatia per noi, disapprovando per lo più tutto quello che veniva a sapere delle nostre attività. Ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di non portargli più rancore. Si è parlato poi della sepoltura e il vecchio signore ha espresso il desiderio di essere inumato nella cripta di famiglia. La qualcosa si presenta estremamente difficile perché noi due, i suoi unici discendenti, non disponiamo al momento dei mezzi per accompagnarlo a destinazione. Che fare dunque? È un problema che ancora non si può risolvere. In compenso domani avrà luogo una benedizione nel luogo del decesso. Oh, lo so che dovrei andarci anch'io, sarebbe mio dovere, ma mi sono rifiutata. Mai nella mia vita ho partecipato a cose di questo genere. Mi fanno orrore, un orrore patologico. Sa il cielo se il vecchio si arrabbierebbe con me pure di questo. Ho paura di irritarlo, anche adesso che è morto, e di attirare sul mio capo qualche sgradevole conseguenza. Poi gradualmente siamo giunti a discorrere dell'eredità in quanto tale. Alcuni anni or sono il mio coerede ha preso visione del testamento e, stando a quello che dice, la somma in questione è veramente tale da far venire il batticuore a tutti e due. Il vecchio signore, però, un anno e mezzo fa, essendo sfortunatamente venuto a conoscenza del nostro contratto, presumo da quel vigliacco del suo avvocato che lo ha stipulato e che noi non abbiamo potuto pagare, ha fatto un viaggio assai sospetto nel paese natale per mettere ordine nei suoi affari. Il mio coerede, che in verità dovrebbe sapere come stanno le cose, sostiene che in base alla legislazione locale, purché sia sposato, nessuno potrà mai defraudarlo di quel che gli spetta, essendo lui l'unico discendente del vecchio in linea diretta. Così ci siamo tranquillizzati. Naturalmente è indispensabile che egli si occupi della faccenda con la massima sollecitudine, ma è convinto che tutto si possa risolvere nel giro di pochi mesi. Mesi, Maria, in pochi mesi può succedere di tutto. Possiamo ammalarci o morire o avere un incidente o perdere il senno. In pochi mesi il denaro ha tempo e agio di farsi venire in mente gli scherzi più stravaganti. Pochi mesi passati nell'attesa sono un tempo tremendo. Io, a scopo preventivo, provo a figurarmi le più atroci eventualità. Se ad esempio si ha paura che qualcuno sia affogato o caduto in un burrone, quello di sicuro torna a casa sano e salvo. Ma se invece lo si aspetta per cena con la massima naturalezza, può darsi che un fulmine lo colga in pieno. Come vedi, ho cambiato totalmente il mio sistema e se prima ero serena e fiduciosa, adesso invece mi difendo con disperata risolutezza da ogni forma di ottimismo. Eppure quando mi sveglio al mattino e ancora non riesco a controllarmi a dovere, penso come una timida innamorata a quel denaro lontano che, a Dio piacendo, entrerà prima o poi in rapporto con me. Naturalmente ho parlato di tutto questo soltanto con i miei commensali maschi. Ho paura che alla vedova verrebbe voglia di stringermi al petto, inondarmi di lacrime e ricominciare con la storia del marito, il feroce speculatore. Harry ha preso la cosa con la stessa serafica tranquillità con la quale aveva accolto i 16 cafri del signor Al-Ramseder, mentre il figlio ateo del pastore ha sostenuto che suo padre, di fronte a un caso simile, si esprimerebbe certo così. Che cosa vuoi che serva ad un uomo ottenere per sé il mondo intero se poi perde la sua anima? Oppure, ha completato il dottor Lucas, non c'è ricchezza che l'uomo possa offrire la quale basti a riacquistare la salvezza dell'anima sua. Ah, io l'anima mia la perderei di buon grado se in cambio potessi ottenere una grande ricchezza, ha replicato il figlio del pastore. E io sono fermamente convinto, ha detto Harry, che col denaro, volendo, uno l'anima può benissimo riscattarla. Gottfried gli ha sorriso felice. La sua nuova visione del mondo diventa ogni giorno più salda. Henry infatti ha in mente di impiegarlo nelle miniere d'oro in Sudafrica e così, non essendo più obbligato a ritornare sotto il tetto paterno, Gottfried potrà tranquillamente fare a meno della sua psicosi. Il dottor Lucas, invece, ha voluto sapere con precisione come mi sento io adesso. È rimasto un po' deluso perché evidentemente si figurava che io reagissi come quei ciabattini di cui si legge sui giornali che alla notizia di una grossa vincita alla lotteria si sentono talmente spaventati e felici che o precipitano giù dalle scale o gli viene un colpo apoplettico. E il mio futuro? Ha chiesto. Com'è che me lo immagino? Oh, io provo a pensarci, ma il futuro non lo vedo ancora e sento invece fortissimo il condizionamento del passato. È come se avessi fatto per metà della mia vita il giocoliere in un circo, ma poi, siccome le palle non volavano più come volevo io, avessi deciso di lanciare bottiglie o piatti o coltelli. È come se, inetto ormai nell'uso delle mani, mi fossi messa a testa in giù per fare giochi di destrezza coi piedi. Tuttavia ho seguitato a sentirmi maledettamente insicura e timorosa di non riuscire a mantenere il controllo della nuova situazione, fino a quando un bel giorno le cose davvero non hanno più funzionato e tutto, piatti e bottiglie e coltelli, sono rovinati al suolo con grande fracasso. E io sentivo i fischi del pubblico, tra cui mi figuravo i miei creditori che ci tenevano molto ad aver speso i loro quattrini per uno spettacolo decente. Insomma, fintanto che il denaro non c'era, avrei preferito non parlarne affatto. Ma Lucas non mollava. Come tutti i liberi docenti, possiede un piccolo patrimonio con il quale si è assicurato una modesta e sicura esistenza. È vero che negli ultimi tempi la frequentazione della nostra compagnia gli ha un po' confuso le idee, ma ogni tanto gli capita di avere una recidiva e adesso si preoccupa soprattutto che io assuma un atteggiamento corretto nei confronti di una situazione tanto mutata. E quindi escogita ogni sorta di progetti sul modo migliore di investire il mio denaro. Investire? La cosa migliore è investire nelle miniere d'oro, fu il consiglio di Harry. È presumibile che in pochi anni, si possano ottenere dividendi colossali. Già, per l'amor del cielo, lei sta fantasticando come quando ha estratto quel suo fiume, si ricorda? E una volta per tutte si possa mangiare la pappa sul capo di Al Ramseder, è tutta lì la questione, continuò Harry imperterrito. Il libero docente lo pregò con le mani giunte. No, la prego, guardi che per colpa sua la signora mi ridiventa del tutto. Dica pure tranquillamente, replicai con tristezza, tanto adesso non corro davvero nessun pericolo. Non appena il denaro sarà arrivato è sicuro che tornerò ad essere del tutto normale. Normale al punto da saper maneggiare quel denaro in modo assennato? Diciamo, tanto per fare un esempio, sarà capace di non intaccare il capitale, ammesso che riesca a cavarsela con gli interessi? E anche di non lasciarsi tentare da speculazioni legate alla speranza che il suo amico Harry possa mangiare la pappa in capo al signor Al Ramseder o a chiunque altro? Ah, lei, Lucas, ha oggi di nuovo una tremenda ricaduta del suo complesso, che è quello dell'economia politica. Quelli che vivono solo degli interessi del capitale sono veramente i più anormali di tutti. Provi a pensare di dover morire all'improvviso. È una cosa che può capitare a chiunque. È che tutto il capitale con il quale avrebbe potuto procurarsi un diletto infinito sia rimasto intatto. A me questo solo pensiero toglierebbe il sonno e la pace. Forse sarebbe opportuno stimare il tempo approssimativo che ciascuno di noi vuole vivere ancora e ripartire la somma in base a questo. E inoltre, provi un po' a pensare al mio complesso del denaro. Come vuole che io riesca a liberarmene se non mi prendo una buona rivincita per tutte le ingiurie pecuniarie che ho subito finora? La prego di smetterla. Disse Lucas, se no mi vien voglia di condividere la sua concezione del cervello femminile e ritenere che in fatto di economia non ci siano speranze per lei. Oh, prima di tutto, veramente il denaro non è ancora arrivato, osservò Harry impassibile. Mi permetta ancora una domanda, almeno. Cosa ne pensa di tutto questo il signor, ma sì, il suo coerede, di cui tra l'altro finora non ci ha neanche detto come si chiama? Oh, porta il mio stesso nome, dato che siamo sposati. Avrei certo fatto meglio a star zitta, ma è una frase che mi è venuta spontanea e poi naturalmente ho dovuto dare una caterva di spiegazioni dalle quali il povero Lucas è rimasto talmente scosso che per il resto della serata si è tenuto in disparte. Tu lo sai che se non è strettamente indispensabile, io non parlo volentieri di questo matrimonio perché trovo davvero noiosissimo dover ripetere per l'ennesima volta le stesse spiegazioni. Noi viviamo insieme. Ci conosciamo appena, non siamo due veri coniugi, il nostro è soltanto un contratto e l'unico interesse che abbiamo in comune è appunto questa eredità. Alcuni trovano la cosa inconcepibile, altri si scandalizzano e a me ogni tanto capita di scordarmi del tutto che in realtà sono una donna sposata. Beh, il professore è in attesa di un nuovo paziente, un principe russo, e noi tutti siamo molto ansiosi di conoscerlo. Suona così bene, principe russo, fa pensare a un tipo bizzarro con tanti soldi.